ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Buonasera, sono in linea? No, linea con Radio Bubù. Ma con chi cazzo deve essere in linea lei? Scusi, me lo spieghi. No, con chi devo... ho chiuso la radio. Ma scusi, ma con chi dovrebbe... Sta parlando con me. Sono Cusani, qui c'è Parenzo. Qui c'è Parenzo. Perché non legge un libro? Ma mi fa impazzire questa cosa qua. Perché non si legge il rapporto che l'Unione Europea ha fatto sullo stato di salute del governo di Orban? Sui diritti violati? Perché non legge? Aspetta, lei ha interesse a leggere il rapporto della Commissione Europea sui diritti di Orban, Roberto? Lei ha interesse? A me non me ne frega un cazzo proprio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Perché è negro, non lo vogliamo. Nero, che non lo negro. Dire. Ma dai, smettila, nero colore, negro è una razza. No, non chiamiamoli. No. A volte perché... chiedere scusa è difficile, ma è fondamentale. Tu sai che non sono per niente razzista, perché proprio tutta la mia vita lo racconta. Per fortuna che almeno in questo la mia ignoranza mi salva. Sono d'accordo con te che è stata una battuta del cavolo. Al di là delle tue reali intenzioni, però, il peso delle parole che hai pronunciate può e deve avere una sola conseguenza. Fausto, sei ufficialmente squalificato dal Grande Fratello. Va bene. Mi dispiace, Fausto, e tu lo sai e credo che tu lo abbia capito. Saluta pure i tuoi inquilini e noi ci vediamo qua. Va bene, d'accordo. Grazie, Fausto. Ho sentito bene! Esti cazzi! Quando uno dice negro, mica io voglio offendere i negri. Negro è negro, non è mica colpa mia se è negro. Sveglia tutti i giorni alle 18:25 per non perdermi neanche un minuto della vostra trasmissione in diretta. Ceno con le cuffiette e quando finisce la trasmissione mi metto ad urlare italiani con il rischio che mia madre gli viene un coccolone. Non contento, poi la notte mi riascolto il podcast della giornata. David, io mi rivolgo a te, ma secondo te è una cosa normale? Esiste un farmaco anti-zanzara, un centro di recupero per i zanzaroni. Io non ce la faccio più, voglio tornare a vivere. David, per piacere, aiuta Donato Dario Nero. Grazie, grazie, grazie. In collegamento da Roma, David Parenzo, eccoci. Buonasera, qui, eccoci. Buonasera qui, cari amici. Mamma, i risultati mia delle elezioni comunali ci dicono che Brugnaro è stato rieletto a Venezia. Ma chi se ne frega? Che nella città di Mantova, ad esempio, dove alberga, risiede un signore che ha denigrato il nome di quella straordinaria città, vince il centro-sinistra. Altra dimostrazione che la zanzara non conta un cazzo, perché non solo avete preso, vi hanno pippato i vostri candidati, tu e di Shrekli e di quell'altro, la signora Lores e il mostro Dolphin, non solo vi hanno pippato ma che vuol dire vi hanno pippato? pippato, diceva Capanno, diceva sempre, vi hanno pippato, non solo vi hanno pippato i vostri candidati, ma a Mantova, città ai noi conosciuta non per Palazzo Te e per l'abate Pomponazzi, per esempio, e per l'abate Pomponazzi, allora, che non è una parolaccia, allora? No, certo. Ma per Mauro da Mantova ha vinto il centro-sinistra. E chi se ne frega? Pippati. In collegamento da Padova. Sì, vabbè, cane rognoso. Non da Padova. In collegamento da Abano Terme, d'accordo. In collegamento da Abano Terme, Alberto Gottardo, eccoci qui. Eccoci. E a me, io sono contento del risultato del Conte, di Loris e di tutti quelli che ci hanno messo la faccia. E caro mio. E intanto, ragazzi, però a me non me ne frega più un cazzo delle elezioni. Io partirei subito con il grande ritorno. È tornato Spatalino. Avanti tutta, vai. Sulle donne in minigonna, senti. Faccio una premessa, io non sono un bacchettone, però certe cose le devo dire. Ci sono tante donne, poi mi attaccano, vedete, si arrabbiano per le mie espressioni un po' colorite quando dico che a qualche donna le friccica. Ho motivo di farlo, perché tu quando vai a scuola devi andare vestita per bene. Spatalino come Parenzo, io non vorrei dirti niente, caro David, ma su questa storia della minigonna, delle ragazze in minigonna, c'è incredibilmente una intesa tra Spatalino, che dice a certe donne le friccica, che vergogna di Spatalino per questo, e a scuola uno deve andare vestito bene. Esattamente quello che ha detto Parenzo. No, io non l'ho mai detto friccica. Esattamente. Era sottinteso nel tuo discorso. Beh, era sottinteso. E ricorda che sul referendum è d'accordo con il generale Pappalardo. Sì, inoltre, sì, certo, assolutamente. Quindi, due indizi fanno una prova. Perché? Vestite in maniera succinta. E la vicepresidente ha detto qualche professore si può distrarre, non vi dico il casino che hanno fatto le femministe, le bandierine, i compagnucci, i sinistri, perché per loro è normale, invece per noi è anormale. Ai miei tempi si andava a scuola, non dico vestiti come le monache, ma con abbigliamenti decenti. Tu non so se nemmeno l'hai fatta la scuola, Spatalino, ma no, cosa significa? Ai suoi tempi non si imparava un cazzo a scuola da come parla, tra le altre cose. Sì, il fallimento della scuola italiana, la presente, sì. Fai vedere quelle due signorine col dadrio, col di dietro, col culo fuori. E se è modo di andare in giro, ditemi voi. Adesso mi preparerò, per carità. Mi attaccheranno le femministe. No, non ti attacca nessuno. Di tutto, ma io me ne frego. Non ti attacca nessuno, Spatalino. Ti abbiamo reso famoso noi. Ti attacca nessuno. Se dici che vanno in giro con il culo di fuori, ma magari. Incredibile. Ma magari le donne dovrebbero andare più spesso in giro con il culo di fuori. Io lo so, sono molto nappiano da questo punto di vista. No, pro nappi. Più donne con il culo di fuori, più donne con il culo scoperto, con le tette di fuori. Benissimo, bisogna far vedere le bellezze. È chiaro che bisogna fare così. Ma non c'è bisogno. Come non c'è bisogno? Se uno lo vuole fare, lo faccia. È bello che l'intimità rimanga tale. E poi perché, no? Perché solo le donne, Cruciani? Perché non tiri fuori il culo anche tu? Sì, anche io vorrei vedere il tuo culo, per esempio. Aspetta. Sarebbe una grande rivoluzione. Aspetta. Come aspetta? Vedrai, aspetta. Vedrò cosa? Perché il professore giovane, mentre fa la lezione, ti vede una gnocca del genere, un culo del genere, è normale che si può distrarre e che gli cada l'occhio. Vergognatevi, state rovinando l'Italia con questo pensiero unico dominante. Ma chi? Sì, però voglio sottolineare che l'opinione di Spatalino su questo punto è esattamente. Lasciamo perdere alcune sfumature. Si chiama eterogenesi dei fini, partiamo da posizioni diverse, capito? No, ma siete partiamo uguali. Da punti diversi e arriviamo alla stessa conclusione. Io però non penso che sia per gli insegnanti che guardano le gambe delle ragazze. Penso sia meglio per le ragazze, non per gli insegnanti, questa non... roba da pazzi. Intanto Meluzzi, ragazzi, no, Meluzzi, vabbè, il Covid riguarda gli equilibri geopolitici. Sì, certo. Beh, è in continuità questa straordinaria vittoria che strappa un'altra roccaforte, perché le roccaforti evidentemente. Quello che sta succedendo non ha niente a che vedere né con la virologia, né con l'immunologia, né con la clinica, ma ha a che vedere invece con degli equilibri geopolitici planetari. Il disegno è talmente forte è talmente penetrante, è talmente autoritario, viene talmente dall'alto ed è talmente convergente in un potere planetario che io credo che le nostre grida di dolore, le nostre grida di verità, le nostre preghiere non lo fermeranno. Poi fermi tutti, Kennedy e Moro uccisi dall'establishment, le verità di Meluzzi, caro Parezzo, che poi che cazzo c'entrano Kennedy e Moro, cioè, siamo nel 2020, la gente che cazzo ce ne frega a noi di Kennedy e di Moro. Chiunque abbia cercato di ostacolare questo disegno, come Kennedy, che voleva emettere un dollaro firmato dal Ministero del Tesoro e non dalla Federal Reserve, è stato ucciso. Anche il povero Moro, che mise in circolo una banconota da 500 lire, non della Banca d'Italia, ma a garanzia dello Stato, credo che fu una delle cose per le quali si è stato eliminato da un certo establishment planetario. Ma cosa dice l'establishment Kennedy, Moro? Dai, ragazzi. L'establishment planetario. E non gliel'hai mai detto, però. Non gliel'hai mai detto. Ma come no? Stanno facendo un po' di rumore le dichiarazioni di Toscani qui alla Zanzara ieri. Io però prenderei le dichiarazioni di Toscani dall'ultima parte, in cui ha parlato, secondo me, in maniera folle, totalmente folle, della questione della figa da palestra, dicendo io non andrei mai al billionaire perché c'è una c'è figa da palestra. Senti, c'è gran figa là, questo non c'è dubbio. Sì, ma quel genere di figa lì non è interessante. Beh, tu dici che ti costa, costa troppo quella figa. No, sono è figa da palestra. Da palestra, tu dici solamente per fare certe cose, non è proprio figa intavolare una discussione, ecco, con cui... Ma no, ma non è che intavolare una discussione, è il piacere di stare con qualcuno che non dico sia intelligente, ma forse sì. Altra tesi di Toscani. E tu zitto, non lo hai redarguito. Altra tesi di Toscani: più pazzesco. Sono lunghi i tacchi e più è piccolo il cervello. Altra follia totale. E tu sempre zitto. Ma senza redarguirlo. Anche tu c'eri, che sei cazzo tu dici? Zitto. E tu sempre zitto a redarguirlo. Perché non hai fiatato? Ma tu sta zitto. Ma non è che vanno tutti i coglioni adesso il billionaire, eh? Cioè, non è che. Cioè, insomma, no. Sono inversamente proporzionali alla lunghezza dei loro tacchi. E lì è pieno di taccate. Ma cioè, perché? È gente che si vuole divertire. Tu dici il cervello è inversamente proporzionale alla lunghezza dei tacchi. Sì, sempre, ricordo. Tu guardi i tacchi, più alti sono, più basso è la quantità del cervello. Ah, tu dici nelle donne è quasi sempre così. Più sono alti i tacchi. Perfetto, è una misura perfetta. E anche chi ha i tatuaggi è sostanzialmente un coglione, senti. Cioè tu dici più alti tacchi più ha tatuaggi e meno ha cervello. Ah, tu, questo qua però potrebbe essere un'interpretazione. Cioè nell'uomo uno più è tatuato più è rincoglionito. Sicuro più è... vuol dire che è rincoglionito, che non siccome non riesce a riguardo Chef Rubio ad esempio nella folla sì. Allora bisogna tatuarsi. Ah, cazzo, questo qua sono io. Combattenti di terra, di mare, di Zaia! Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it vi presenta La Zanzara. Dove sei, veneti? Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Sono quel pesce bollito di Toscani che dice che chi ha il tatuaggio è un handicappato, cioè, mamma mia. Ma io ho tatuato medici, chirurghi, avvocati, poliziotti, scienziati, chimici, di tutto. Il povero signor Toscani, meglio che non se ne fa tatuaggi. Allora ragazzi, due paroline sulla questione della cittadinanza, sì. Suarez, su questa specie di truffa scoperta a Perugia, sì, ridicola, sì. Innanzitutto ridicolo l'esame, che un giocatore uruguaiano da anni in Spagna, Unione Europea, debba venire in Italia a sostenere un esame di italiano all'Università di Perugia è di per sé già una follia ridicola. Solo in Italia può accadere che uno debba sostenere questo esame quando è già qui in Spagna, non è venuto con il barcone, non è venuto dalla Nigeria con il barcone, cosa legittima, per carità. L'avessero fatto a Razzi, per esempio a Scilipoti, magari non lo superavano. Ma non lo so, può loro. Darsi, ma il problema è questo, l'ha superato pure perché si erano messi d'accordo prima, pare, dalla truffa scoperta dalla Guardia di Finanza, ma il problema è un altro. Primo, la follia di questa roba qui. Un giocatore che da anni in Europa giocava nel Barcellona, gioca ancora formalmente nel Barcellona, e deve venire in Italia per sostenere un esame. Già follia a Perugia con i giornalisti, con la Juventus che chiama l'università, eccetera eccetera. Ma di che cazzo stiamo parlando? Dategli la cittadinanza italiana, quello che gli serve non era la cittadinanza, dategli la residenza, non so che cazzo era, e via. Ma che roba è? Ma abita in Spagna da 20 anni, gioca a pallone. Poi questi altri cretini, non coniuga i verbi, parla all'infinito, ma ti pare che lo bocciamo perché guadagna 10 milioni? Altra cialtronaggine ancora, all'interno di una cialtronaggine che è l'esame, ulteriore cialtronaggine di questi qua che dicono che non lo possono bocciare perché altrimenti questo guadagna 10 milioni, poi parlano anche di un attentato terroristico. Tutta una cialtronaggine. La figura di merda non è né di Suarez né della Juventus. Beh, che gli ha... insomma, la figura di merda è l'università di Perugia, che ha questi deficienti qui, che ma invece di fare un esame e promuoverlo così d'ufficio, perché dice vabbè, questo qua deve venire a giocare qua in Italia, che cazzo ce ne frega a noi. Ma perché lo devi promuovere d'ufficio? Non si capisce. Ma di che parliamo? Deve venire a giocare qui in Italia e non può giocare perché non parla italiano? Ma che roba è? Sì, è ma follia. Di che parliamo? Dai, su, ma è una follia pura, no? Suarez, ma chi se ne... Gate. Il ma Suarez, dai, su, Gate. L'altra follia assoluta, ma una roba ridicola, ma... se ci pensi. Poi l'altra cosa è la parola negro, mi fa impazzire questa roba. Beh, qua, la parola beh, negro. Dai, ma tu ormai sdogani qualunque cosa. La parola negro, allora, la parola negro è relativo a una delle grandi suddivisioni antropologiche dell'umanità, indigena della massima parte dell'Africa sud del Sahara, la cui distinzione più vistosa e tradizionalmente sottolineata consiste nel colore scuro della pelle, dovuto ad abbondanza di pigmento. Individuo appartenente a questa suddivisione antropologica. Sappiamo. Il termine, sentito come spregiativo o discriminatorio, viene spesso sostituito da nero. Ho capito, ma non è che se io dico negro, come l'ha detto il povero Fausto Leali, che ha calato le braghe, d'accordo, perché ha detto sbagliato, quello purtroppo è un suo errore. Retaggio culturale del mondo dal ma quale appartiene. Ma se uno lo dice negro, ma punto e basta, come Feltri, dice negro. Retaggio culturale del mondo sì, ma dal non è quale che puoi viene. Essere messo al bando. Retaggio culturale del mondo dal quale proviene. Dai, su. Retaggio culturale. Ma siete patetici, siete del mondo patetici. Dal quale proviene. Siete patetici. Retaggio culturale del mondo dal quale proviene. Pappalardo, vai con Pappalardo. Quelli del Movimento 5 Stelle, tutti che gridano, abbiamo vinto, ma che avete vinto? Che avete vinto, cialtroni, che avete preso in giro il popolo italiano. Secondo me è venuto il momento che, come si rilascia un certificato per ogni idoneità a guidare la macchina, certificato per avere una licenza, si danno tanti certificati. Che vuole fare questo? Come mai non si dà il certificato di idoneità al voto? Ma che vuol dire? Il certificato. E qua non è possibile che questa massa di ignorantoni vada a votare. Bisogna rilasciare un certificato di idoneità al voto. E chi lo rilascia? Tu? Naturalmente è previsto dalla legge, non possono andare a votare i pregiudicati e coloro che hanno subito delle condanne penali. Ma non basta! Roba da pazzi. Però mi segnalano giustamente che sua Volpe Pasini, che in questo caso dice una cosa intelligente, in questo caso, dice, mi scrive, Suarez ha chiesto la cittadinanza italiana e la legge prevede esame in italiano per averla. Chiunque tu sia, anche se sei nero. Certo, ma nessuno dice l'ottimo Roberto Duplicato, personaggio illustre, dice, gente che aspetta la cittadinanza da anni, se ne frega. Arriva un uruguaiano che siccome guadagna 10 milioni deve passare. Bravo Duplicato. Ma io non sto dicendo, Roberto Duplicato. Ma chi, devi ho capito, dire. L'hai detto tre volte, ma chi no, se ne frega? Ma devi ma chi riconosceglielo, cazzo è? Perché Caterina ha fatto un grande Torino, ragionamento. Come chi è? Caterina da Torino. Ma poi bravo, dai. Bravo un cazzo, paga le tasse in Italia, gli do la precedenza. Ma su 10 milioni ne pagherà 3 come o 4. Gli do la precedenza. Scusami, ma sì, certo, ma gli do la precedenza. Perché è ricco, gli do la precedenza. Ma che paga le tasse? Che bel mondo che avete in testa. Ma no, la precedenza, ma chi se ne frega? Gioca a pallone, chi se ne fotte della cittadinanza italiana? Facessero un esame finto. Ma l'ha chiesta lui. Caterina da Torino, lo so che è obbligatoria. Caterina e da allora? Torino, dai. Dimmi, Caterina, dimmi. Dimmi. Pronto? Dimmi, buonasera. Dimmi. Buonasera. Dimmi, allora, Caterina. Allora, io volevo intervenire sulla vergognosa escursione di Fausto Leali. Vergognosa, sottolineo. Perché addirittura è stato tacciato dallo scrittore come un ritardo culturale. Ma quale ritardo culturale? Ma evidente, quando mai? Ma quale evidente, ritardo non culturale? Solo, mancanza, non solo culturale. Non una, solo mancanza culturale. Di, una mancanza di rispetto per una persona diciamo, trovo facilmente definibile buona. Vabbè, una persona educata, una persona rispettosa. Caterina, mi hai rotto il cazzo. Pierluigi da Milano, vai, Pierluigi, dimmi. Ciao, mi senti? Sì, ti sento. Volevo riprendere il discorso della minigonna e la polemica che c'è stata. Sì, dimmi. Nessuno si ricorda che negli anni 70 andavano in giro con la minigonna e le ragazze andavano a scuola con la minigonna e nessuno diceva niente. Io addirittura, per esperienza personale, ero dai preti a studiare, dai salesiani. Ma non esiste questa polemica, è una polemica inventata. Quella vicepreside non voleva imporre nulla, primo. Secondo, le manifestazioni di adesso sono ridicole. La cosa ancora più ridicola è Parenzo che dice che fanno bene a imporre una specie di codice di abbigliamento per entrare in classe. No, un dress code per non esiste. In qualunque luogo tu vada. L'ayatollah Parenzo, Senti, Simone da Milano. Dimmi, ma non è così. Dimmi. Sì, ciao Cruciani, ascolta, io ce l'ho con quel pezzo di merda di Sgarbi. Il livello di servilismo che ha raggiunto la tua trasmissione con Sgarbi ha raggiunto livelli top. Tu ormai sei incommentabile, perché tu ormai sei oltre leccare il culo. Parenzo, quel fascista di Parenzo, preferisco quello che mi dà fastidio è Gottardo, che sembra alzare la testa arriva fino a un certo punto, perché giustamente contesta che quel lavativo di Sgarbi non va a lavorare, perché Sgarbi non va a lavorare, ma non dire stronzate, non lavora. Ma non dire stronzate, Simone, ma sei un poveraccio. Si caga addosso. Ma cosa stai dicendo? Ma che ne sai che non va a lavorare? Devi alzare il livello. Ma cosa stai dicendo? Ma mi sono preso Simone, tu a Sgarbi puoi pulire le scarpe. Forse quando pulisci le scarpe, quando gli pulisci le scarpe, gli chiedi anche: posso pulire? Devi anche chiedere il permesso di pulire le scarpe. No, ma sono gli stessi che si fanno i selfie. Poi ti incontrano e si fanno i selfie. Leone da telefono. Fallo venire lì. Che ti presentiamo con i gavettoni di merda. Perde tempo con te, Sgarbi. Guarda, Gottardo, perde tempo. Ma è un lavativo di merda. Fermi. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. La Zanzara. Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 00240024, oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701. Servo, oggi parlerai dell'esame di Suarez organizzato dalla Juventus, vero? Come le patenti nautiche dei calciatori del Napoli. Che servo che sei, lurido schifoso. Parenzo, sei sempre il solito demente. Denunciare una persona che si dichiara fascista. Ma vai a fare in culo! Onore a Benito Mussolini! Onore a Benito Mussolini, eterno duce d'Italia! A noi, Elia Camionista. Super iper fascista. Sto ascoltando la puntata in diretta, c'è un tizio che dice che i negri vanno col monopattino, sono pericolosi. No ragazzi, fate questo, io vivo in paesini di provincia, ragazzi di colore sono continuamente contro mano in bicicletta, tutti bicicletta, monopattino, passeggino, una ruota, due ruote, non esiste, guidano come se fossero in Africa. Sta cosa è vera, cioè è inutile che continuiamo a dire no. Parenzo, come fai a dire di no di fronte all'evidenza? Perché te vivi nella tua bolla rich del salottino della sinistra, ma la realtà è questa. Allora ragazzi, ormai il politicamente corretto ci travolge, il politicamente corretto ci condiziona. È un bene che ci sia questo spazio di libertà in questa trasmissione in cui ci sono degli eccessi certamente, ma sopravvive la libertà. ormai non si può dire praticamente più un cazzo. Cosa? Dici negro tutto all'interno di una reality, oh, dove ne succedono di tutti i colori, perché ne succede di tutti i colori all'interno di un reality, no? La gente non parla passare di qualsiasi cosa, non dici negro, parli del duce e vieni cacciato. Succede a Fausto Leali. No, ma ti credo un cazzo, ti credo un cazzo. No, ma in Germania, scusami, se in Germania l'omologo del Grande Fratello. Ma chi se ne frega, ma è un reality, ma è un reality. Ma non è un reality, è una cosa che guardano milioni di persone. Non ha detto vive il duce, ha detto che Mussolini ha fatto delle cose giuste, lo dice anche Sgarbi volendo. Ma lo dice Sgarbi, anche Sgarbi, lo può dire perché è un professore, uno storico dell'arte. Poi ha parlato dei negri, non dicendo sporchi negri. Se lo avessero non dicendo fatto sporchi in Germania, negri, avrebbero ha bombardato la casa razza del Grande Fratello, l'avrebbero bombardata in Germania. Comunque, in Germania l'avrebbero bombardata. Ragazzi, siccome è politicamente corretto ci travolge. C'è un altro caso che vi voglio. Comunque, aspetta, fermati solo un secondo. A proposito di politicamente, ti leggo solo due righe di una cosa. Dammi due secondi. Dimmi. Un signore che tu conosci scrive su Facebook e dimmi tu cos'è questo. 2 settimane e 4 chili fa iniziavo la mia avventura radiofonica in questa location sperimentale. Certo, ed anche certo un viaggio dentro di me. Dentro di me. Per mettere sì, esatto a posto quegli ingranaggi che sembravano non funzionare esatto più. Mi sento rinascere. Sto recuperando energie che immaginavo perdute. Il cammino sarà ancora lungo, ma la strada è tracciata. Marchetta! Marchetta! Non è Marchetta! Marchetta! È Marchetta! Comunicare il benessere che mi pervade, povero coglione che sei anche Marchetta invidioso Marchetta della Marchetta situazione lussuosa Marchetta che mi vede qui al Plaza di Abano. Giù. Benissimo. Allora, a proposito di politicamente corretto, c'è un locale a Milano, sì, ti giuro, sì, c'è un locale a Milano, sì, un bar dove sono arrivate anche le telecamere della Rai, dei programmi televisivi, sì, in sì cui da anni, non adesso, da anni, cosa c'è vuoi esposto un cartello in cui si dice, male, scherzosamente, vi offriamo dei ciupiti, questa è una ciupiteria, termine terribile, però è così, vicino a Porta Romana, credo, in cui si dice vi offriamo dei ciupiti alle ragazze se scoprite le tette, fondamentalmente se tirate fuori le tette. Ovviamente non avviene, purtroppo non avviene. Se avvenisse sarebbe non ci sarebbe nulla di grave. Sessismo, telecamere, un ex assessore della sinistra a Milano che dice questa è una vergogna, dovete togliergli i permessi, ma vi dovete vergognare voi di parlare di queste stronzate, di queste puttanate, è un cartello che era lì da anni e soprattutto non significa nulla. Dov'è il sessismo? Era uno scherzo per dire ragazze vi diamo dei ciupiti se tirate fuori le tette, ma qual è il problema? Ma non è tutto sessismo, Parenzo, sei tu che provochi queste cose, no, è un tuo problema, è un tuo problema. Ma che problema avete poi col sesso? Che problema avete con le tette, anzi, delle ragazze? Non si può dire che una c'ha il culo bello, non ma si può dire che una ha le tette belle, ma è no, è normale, è normale. Cioè glielo puoi dire nell'intimità, dai, della tua su casa. Ma non persona, dire non puoi dire una che ha delle belle tette. Ma no, non puoi dire una hai delle belle tette, non glielo puoi dire. È da maleducati. Ma cazzo siamo arrivati. Ma è normale, secondo te, che tu vedi una per strada e dici. Certo, ma sarebbe sì normale, sarebbe normale. Sai ma che hai proprio delle faresti belle tette? Ma no, non lo faccio perché non me ne frega un cazzo. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Ma glielo potrei anche fare, solo che mi no accusano. Sei un'amica, non è vero. Ma sei una persona che conosci, stronzate, con cui hai una confidenza, puoi farlo. Ma non è che vedi una scusa, sul che tram differenza c'è e dire dici ah, sai che hai delle belle tette? Che differenza ti dà è? Che ha anche ragione. Ma che differenza c'è dire hai un bel cappello piuttosto che delle belle tette? Mi ma vuoi spiegare? C'è una differenza fondamentale. Ho dei begli occhi, ho dei begli occhi che te sicuramente se dico a una dai begli occhi non mi dicono un cazzo, probabilmente mi dice vabbè grazie arrivederci, se dico e una di solito hai delle di belle solito tette, le stai guardando le tette, dai, le su, stai ragazzi le tette quando dici hai dei begli occhi, ma che ipocrisia è Giampiero da Teramo, dai, due maiali Giampiero maiali da Teramo, dai, pronto, dimmi. Allora io mi volevo riallacciare al discorso di prima sulla proporzione che avete fatto sui tacchi e il cervello. No, quello non l'ho fatta io, l'ha fatta Toscani ieri sera. Toscani ieri sera ha detto, parlando del billionaire, che c'erano molte donne taccate, ha detto taccate così, e più una donna ha i tacchi alti più il cervello è piccolo, cioè i tacchi alti sono inversamente proporzionali alla grossezza, all'intelligenza, questo voleva dire in sostanza. Questo l'ha detto Toscani, ma io non sono assolutamente d'accordo, cioè è una cazzata monumentale, pronto. Io volevo dire invece che in una persona più i capelli sono lunghi, più è corto il cervello. Sì, ma se ti vuoi riferire a me lo puoi dire tranquillamente, non c'è nessun problema, Giampiero. Cioè, me lo puoi dire anche direttamente invece di utilizzare questa, no, questa metafora ridicola. Se vuoi dire che sono rincoglionito, me lo puoi dire direttamente. Sì. Non attraverso diciamo questa che ridicola metafora, cioè penosa metafora dei capelli lunghi, che è una metafora penosa, chiaro? Vabbè, diciamo che ridi su sto cazzo, ridi, che ridi. Una siamo un esempio. Ride da solo. Ma ne ride da solo, ride da solo, boh, ride da solo, senza così. È intervenuto, ha detto sta cazzata, viene martellato, viene massacrato in diretta e poi Andrea dalla provincia di Macerata, un deficiente totale. Andrea, dimmi, non lui, no Andrea. Dimmi, grazie. Dimmi. Ciao Giuseppe. Allora guarda, io ti chiamo per una trasmissione della scorsa settimana. No, ma che nel senso, è cominciato a diventare una roba veramente folle. Allora, leggevo da qualche parte, me lo segnala un ascoltatore, che c'è uno scrittore, uno che parla anche, non so se attraverso un podcast o alla radio, uno che parla di whisky, no? Parla solamente di whisky e fa una specie di bibbia del whisky. Ha paragonato, adesso viene, diciamo, censurato, diciamo così, o comunque criticato, perché ha paragonato ogni whisky gallese, un whisky scozzese, ha un rapporto sessuale. Cioè, ti rendi conto? Cioè, parlando o scrivendo, dice: questo whisky gallese assomiglia a un rapporto a tre, assomiglia al sesso anale. Massacrato, non si può paragonare il whisky a un rapporto sessuale. Ma andate a fare in culo. Andrea dalla provincia di Macerata. Dai, dimmi. Eccomi. Allora, guarda, io ti premetto che sono contrario all'aborto e penso che pazienza. Sia un omicidio, ok? Benissimo, sei legittimato. Sei legittimato. Sei legittimato. È la mia idea. Però fammi finire. Questo è solo l'inizio. Allora, la scorsa settimana tu e David, e questo mi dispiace perché io vi seguo sempre, sono proprio un vostro affezionatissimo. Avete fatto praticamente 10 minuti di elogio dell'aborto, ironizzando scherzandoci sopra, ok? Questo lo avete fatto intervistando il dottore che voi avete definito dottor Morte. È una rubrica fissa. Allora, scusami un attimo, David, io ti apprezzo tantissimo. Ma allora, l'aborto non può essere svilito come se fosse un acquisto di tutt'altro. Voi lo avete svilito voi, perché voi in quella trasmissione risentitevi, tu non ti risenti mai, però ti dovresti risentire. Avete trattato l'aborto come se fosse andate senti, a comprare mio, un questa pacchetto qua è la zanzara, non è porta a porta di... ma non è porta a porta, non è porta a porta, non è TV Sat 2000, non è la televisione della CEI dei vescovi. A me non me ne frega un cazzo di trattare l'aborto come dici tu, è chiaro? Ma che svilire, ma chi lo svilisce? Ma non rompere i coglioni, ma non dire stronzate, ma tu puoi rompere i coglioni. Ma che cosa io vuol dire? Stronzate, ma okay? io l'ho trattato come mi pare a me, cioè, ma non me lo devi dire tu come lo devo trattare. E io come mi pare a me ti vengo a dire che abortire non può essere come andarsi a fare una partita di tennis, ma certo, come tu lo ritieni. Ma okay? Chi lo dice? Ma io non lo ritieni. Ma avete detto voi, risentitevi no, quella carta di tennis, ma io non so, ma non oggi quante fatto... volte hai fatto? 3, 7, 12, bravo! Ma che bravo, abbiamo semplicemente fatto il numero, abbiamo semplicemente gli abbiamo fatto dire il numero di aborti che ha fatto, il numero quotidiano di aborti, l'aborto quotidiano. E voi durante quella intervista, e voi durante chiamamelo, chiamami, facciamo il conto di oggi, aspetta, fermo là, conto di oggi, fermo là. Guarda Giuseppe, io ti sento sempre, però posso anche dirti che su 100.000 trasmissioni quei 5 minuti sono stati disgustosi. E quindi tu preferisci quelli che invece fanno gli obiettori, preferisci quelli che pagati dal servizio pubblico fanno gli obiettori. Allora, arriva una donna che vuole abortire e gli dice no, lei deve continuare. Guarda, ti posso dire, c'è una legge che lo consente. Dove sei, ok? Mani? Fino a quando ci sarà una legge che lo consente, è una follia. Allora, dovrebbe essere obbligatorio. No, fai un partito, dici abroghiamo quella legge, quando sarà abrogata hai ragione. Per adesso io abrogherei il diritto di fare obiezione di coscienza se allora fossi un medico. Fai un partito, ti dico, non è incivile. Allora, è assolutamente fermo là Andrea, io voglio capire una cosa, tu pensi che sia un omicidio? Io non penso che sia un omicidio. Noi abbiamo fatto fare a Biale semplicemente il conto degli aborti per legge. Sentila la trasmissione, aborti quotidiani non abbiamo trattato nulla con leggerezza, sappiamo ma figuriamoci, l'aborto non ha bisogno di sport, è una legge dello Stato. Io sono contro gli aborti, quelli che fanno l'obiezione di coscienza li caccerei via, quelli che fanno l'obiezione allora, di coscienza fai la legge, cacciali fino a quando non c'è la legge, fino a che c'è la legge, fermi che lo contente, tutti, aspetta Andrea, fermo tutto. Viale, eccolo Viale. Sì. Quanti eccoci. Aborti oggi? Quanti aborti come va oggi? Caro? Buonasera dottore. Buonasera. Oggi abbiamo fatto solo quelli, no, abbiamo fatto 7 chirurgici e 9 medici più. Caspita. 15, 16. Beh, in tutto? Beh, 16 per oggi. Bisogna eh? Ricordarsi esattamente. 16. Ma 16. Poi c'era due TG terapeutici delle parti, quindi 16-17. Qual è il problema? Andrea, qual è il problema di questo conteggio? Il problema è il modo in cui voi trattate una cosa. Ma non trattiamo, sappiamo del dramma. No, 17 aborti oggi. Quello che volevano quelle donne. Quello che volevano quelle donne. Quello che volevano quelle donne. Libertà. Libertà. Vergognati. Vergognati. Vergognati tu. Io non mi vergogno di niente. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Noi ciccioni siamo più discriminati dai transessuali. Gottardo, io sono obeso, proprio fratello di Adive come te, eppure mi sembra una delle più grandi stronzate che abbia mai sentito. Ripigliati, fratello. Certo, Gottardo è veramente coerente, no? Prima fa la battutaccia sua di Nolfi, che è gigantesco e che non può stare sul monopattino, poi tra l'altro Gottardo che è un grassone di merda, poi poco dopo dice che i ciccioni sono più discriminati degli omosessuali. A Gottardo, ma batta a piande il culo. Palla di lardo a Gottardo, da del grassone ad Adinolfi. È come il maiale che dice nella stalla all'asino: mi raccomando, teniamoci puliti. Ma va a far culo. Comunque ragazzi, non si finisce mai di apprendere cose poi, nuove. Parla di lardo un cazzo, ho perso mamma un mia altro come chilo sei suscettibile oh, come sei suscettibile ho perso 5 kg in due settimane, ma qualche a fare in culo. Sì, ma qualche volta bisogna anche se farsi persi, scivolare però, le cose addosso. Capito, ma se le ha persi sta facendo un sacrificio enorme, ho capito, sempre grasso dopo, dopo aver fatto dei video su Facebook in cui si fa chiamare gola profonda, in cui mangia uno sproposito che invito tutti a vedere, la roba incredibile, bei quello tempi, che bei tempi di roba profonda che mangia. Ormai possiamo basta, dire un'altra cosa? Adesso. Possiamo mandare in onda la cosa ridicola di Parenzo che è sbarcato su TikTok a proposito di video ridicoli? Sì, molto buono, molto una cosa veramente patetica. No, sai, vuoi sapere no. perché? No, ma c'è un video. Ma se vuoi ti dico perché? No, in cui c'è una musica che in cui lui e la figlia praticamente sono in macchina a cantare. Sì. Un video esatto. che ho trovato la veramente figlia, ridicolo. Lui che fa il balletto. Di Parenzo, già più alta di Parenzo. Sentiamo un po'. Che sì, c'è. Però. Senti, senti. Laura. Laura. Laura. Divina. Divina. Amore, dimmi. Sono io la divina. Ma che roba era? Ma che roba è? Allora, ti spiego questo, ti svelo questo se vuoi. Io per capire il mondo dei giovani, siccome sono un padre un po' controllante, e per vedere gli amici dei social di mia figlia, le ho chiesto che di. Strofo. Sì, ma gliel'ho dichiarato, ho detto tu puoi andare sui social, però papà ti deve seguire. Papà ti deve seguire. Ma veramente c'è il Mossad? Certo. Come il Mossad sei? Papà vuole sapere quello che i video che no, metti, ma le cose. Ti do una notizia, Parenzo. Ti do una notizia, Parenzo. Quel video ti è stato visto di più. È stato visto di più di una puntata media di In Onda, tra le altre cose. Questo per cui Laura, Laura. Ma che cos'era quello? Perché avete fatto c'è, Laura? Perché c'è la mia figlia e non telese. Questo no, ma non ho capito. Non ho capito perché. Perché che cos'è sto Laura? Ma non cos'è? No, non so un cazzo. Cos'è? Perché chi non è? Sei, non conosci il mondo dei giovani. Ma va. Laura, sei un boomer. Laura, sono io la divina. Ciao, eccomi. Ma no, vaffanculo. Comunque ragazzi, la demisessualità è un orientamento sessuale che consiste nel provare attrazione sessuale solo per persone con cui si ha, chiudete questo cazzo di telefonini, solo per persone con cui si ha un forte legame emotivo. La demisessualità non va confusa con l'astinenza sessuale o castità. Questo francamente non lo sapevo. Vabbè. Cioè, quindi la, quello che cioè, ho sostanzialmente da 7 anni, no, Riccardo di ieri, no, è un demisessuale. Parlate no, senza no. dire parolacce perché mia figlia mi ha scritto che mi sta ascoltando dalla macchina. Allora, la demisessualità è un orientamento sessuale che consiste nel provare attrazione sessuale solo per persone con cui si ha un forte legame emotivo. È la in sostanza la situazione parenziana, diciamo la verità. Però cioè, parla educato perché c'è ma mia figlia. Che in cazzo macchina me ne frega? Ma vuole sentire più parolacce di te? Lei. No, Marcella da Roma, ma figuriamoci, si diverte. Sì, no, Marcella si diverte da Roma, non me ne può fregare di meno chi c'è o non c'è. Marcella. Dimmi Marcella, pronto? Dimmi Marcella, dimmi. Ciao, dimmi. Giuseppe. Dimmi Marcella, sì. Allora, io volevo solamente intervenire brevissimamente su quell'episodio di Vicenza, di quel ancora. E volevo solo dire che io sono pienamente d'accordo con la signora che aveva detto che praticamente l'avrebbe asfaltato. Io voglio solo aggiungere che io l'avrei asfaltato, ma avrei fatto anche retromarcia per essere sicura. Ricordiamo l'episodio. Di quello là, pensionato che è intervenuto a difendere quella ragazza. No, non era una rissa, l'aggressione da parte di parte di un pregiudicato nei confronti della supposta fidanzata. Vabbè, allora è arrivato un anziano per dividerle e si è preso un sacco di pugni in bocca. L'assessora Elena Donazzana, assessora uscente della Giunta Zaia, che ha detto che l'avrebbe preso sotto con il SUV, ha preso 10.500 preferenze. Pazzesco. Prima eletta nella circoscrizione di Vicenza. È che la gente pensa così, che voi gli unici che fate sentire. La gente è stufa di essere presa a botte. Tu cosa avresti fatto, Marcella? Non ho capito. Io l'avrei asfaltato, però per essere sicura di averlo preso bene, di lasciarlo lì stecchito, avrei fatto anche marcia indietro. Benissimo. Avresti fatto marcia indietro con la macchina. E che cazzo ne sai se quello era il colpevole, se chi stava picchiando, chi non stava picchiando, come fai? Non c'erano opinioni. L'episodio è quello, è chiarissimo, non c'è possibilità di dubbio. Signora, le faccio una domanda. Tra questi tre programmi, lei cosa guarda tra In Onda, Fuori dal Coro e dalla vostra parte? Perfetto. Cosa guarda lei tra In Onda, Fuori dal Coro, tra Dei Dei Dei? Non lo guardo perché non mi piace assolutamente. Non mi piace. Il programma di Del Debbio? Preferisco In Onda. Andrea da Salerno, vai Andrea, dimmi. Ciao ragazzi, io vi volevo dire che in questo mondo italiano di ipocriti, di giornalisti che fanno vedere sempre le stesse cose, praticamente che hanno una stampa di regime, voi siete quelli che date la voce a noi spettatori. Vabbè, questo lo sappiamo, non c'è bisogno che ci lecchi il culo. Non sto leccando il culo a nessuno, voglio dire che è molto importante perché in Italia qua fanno. Vabbè, abbiamo capito, dai, andiamo avanti, dai, forza. Grazie che ci state, no? Ma va a far culo, va, Daniele da Roma, dai. Vai a fare in culo, Daniele da Roma, dai. Allora, eccolo. Questo è dedicato alla figlia di Parenzo, questo qua. Daniele da Roma, questo vaffanculo. No, a lei. Il modo di dire, no, figuriamoci. Daniele da Roma. Non a lei. Ma figuriamoci. Però è un linguaggio sconveniente. Dimmi, Daniele, dimmi. Situazione di Suarez, devo dire una cosa a te e una cosa a Parenzo. Allora, a te, che hai detto un po' di cazzate e mi ma quali sarebbero le cazzate? Non è che posso andare nel dettaglio. Ma chi se ne frega del dettaglio? Ma la differenza? Ma la differenza fra lavorare in uno stato dell'Unione Europea e prendere la cittadinanza di un paese dell'Unione Europea. Non dire che è uguale se uno lavora in Unione Europea il passaporto. Ma ho capito, fammi dire una cosa, se tu domani vuoi prendere il passaporto francese, vado al manicomio, guarda, vado al manicomio. In uno stato dell'Unione Europea, ma ragazzi, ma capisci che è una follia, no? Capisci che è una follia. No, perché tutti gli stati membri italiana, questo qua italiana, di origine italiana. La legge è così, ma va bene, ma un esame d'accesso per prendere il passaporto. Ma sì, va bene, d'accordo, ma vogliamo fare un esame serio? Uno che gioca a pallone e guadagna 10 milioni di euro l'anno? Ma siccome guadagna 10 milioni non deve fare l'esame? Ma deve sottrarsi alla legge. Ma non è sottrarsi alla legge, non ci doveva proprio essere questa roba qua. Scrivi qua. Ma dai, hai detto, su. Hai detto una cazzata, hai detto che uno che lavora in Spagna non deve. No, questo qua gioca in una squadra da 10 anni e non gioca in Burundi, gioca in una squadra spagnola. Ma non italiana, il passaporto italiano, lo so perfettamente. Le regole valgono per tutti, non è che se uno guadagna 10 milioni di euro a un altro status. Spero che Cruciani non mi censuri se dico una cosa, penso che sia abbastanza vero, sai Parenzo, perché tu stesso l'hai notato che, Parenzo, Cruciani difende sempre la Juve gli ultimi anni. Perché, pare che perché? Ci sia stato un incontro in un hotel milanese tra Tavecchio, Giraudo e Cruciani. Ma questo già c'è, è documentato, rincoglionito, documentato. Ma che hai c'entra? Ma anni fa, ma vaffanculo. Confermo. C'è il grande Andy Spider, ex attore porno, attore diciamo no, non del porno adesso. Andy Spider, fermo. Andy Spider che è un grande tifoso della Lazio. Una volta girò un film porno con la maglietta della squadra che è anche la mia squadra. E vuole dire due paroline su Toscani, giusto Andy? Sì, assolutamente sì. Anche su Parenzo magari, no? Vabbè, a Parenzo si commenta da solo, Barça con guardi in faccia, noi. Mi sembra brutta questo? Copia del quadro di un mondo scrofalo proprio. Ma chi è questo fine intellettuale? Chi è questo fine e raffinato ascoltatore? Chi è? Il signor Andy Spider. Chi è il signor Andy? Chiedo scusa se non conosco la biografia del signor Andy Spider numero non uno. So chi sia, non Andy, ho idea. Cosa volevi dire non su idea. Toscani? Non ho idea chi sia. No vabbè, io in ogni caso Toscani penso che veramente sia proprio una, cioè, la diarrea di un cane sulla strada, penso che bello, sia più dignitosa, di Toscani, cioè, un bello. Uomo che pure la figlia lo manda a fare in culo e dice da un uomo di merda. Quelli sono contrasti loro, che c'entra? Ma adesso? Cosa c'entra? Ma cosa vuol dire sulle parole di Toscani? A proposito di cosa? No, perché Toscani purtroppo si è assoldato da qualche bel partitino, c'ha sempre da criticare tutti quelli che la pensano differentemente da lui. Ma ha criticato Salvini, la Lega, ma insomma chi se ne frega? Cioè... Mi scrivono. Sono i modi, no? Nel chi senso è questo aristocratico? Tu adesso parla, non è che puoi parlare tanto di modi, amico mio. Ma io non so Toscani, io sto un bianco a lui. Non c'è una lira, non mi conosce nessuno, perciò se posso dire che Parenzo è brutta e assomiglia ai scimmie del Safari Park, posso pure dire. Tu, te chi sei? Perché se io sono brutto, te chi sei? Alain Delon. Comunque mi scrive un importante banchiere romano. Sì, chi è di grazia questo aristocratico? Vabbè, che allora, questo qua si chiama... ha lavorato con Damiano, ha fatto Pregnant, Napoleone, Pussycat. Ma stai scherzando? Andy Spider è stato un attore porno. Adesso non fa più l'attore porno, probabilmente perché non gli tira più. Molto probabilmente. Perché non li tira più, assolutamente no, ai livelli di 20 anni fa, questo è poco ma sicuro. Questo è sicuro, 20 anni fa ti tirava, adesso non ti tira più. Ormai ti sei dato, come dire, al cinema normale, ma mi sembra che come dici, nessun successo. Hai le pezze al culo, l'hai detto tu, ecco. Caro Andy. Le pezze al culo oggi ci vanno pure quelli che magari hanno più successo di me. No, ho fatto qualcosetta. Uno sta su Amazon Prime adesso. Ma perché non vai a lavorare in una biblioteca, ad esempio? Sarebbe bellissimo. Vai a lavorare in una biblioteca. A me non me la può lavorare, pare. Lavora te, devo lavorare io. Ma che cazzo gli vado a lavorare? Ma prende il reddito di cittadinanza? Andy, lei no, prende il reddito di cittadinanza? Purtroppo no. A te non ti va di lavorare? Che cazzo gli va di fare? Un cazzo? No, io mangio i soldi che guadagno. Te mangi i soldi che guadagni? Ma che messaggio mandi ai giovani all'ascolto? Giovani all'ascolto devono scopare più. Intanto uso il linguaggio più educato. Intanto, perché primo. Se poi non trommano, diventano brutti come te. Intanto lei usi un linguaggio più consono a questa radio. Parenzo, vale, noi di occhiaie, sono due borse di imbicca, posso le occhiaie. ciao Andy, ciao. Mamma. Allora, Laura, ragazzi, fammelo risentire che è meraviglioso, fammelo risentire ancora. Laura. Allora, abbiamo con noi un mio amico molto omosessuale. Ecco, io posso lui dire anche... aspetta, no, lui conosce questa cosa di Laura, vedrai. Sicuro. Mio amico molto omosessuale, con cui voglio litigare bene, perché l'altro giorno, durante una puntata della D'Urso, ha detto: ah, ma non si può dire la parola negro, non ha si ragione, può dire la parola frocio, ragione. Come dire la parola frocio, oddio, si è messo a fare la madamina delle parole, Giovanni Ciacci, buonasera. Buonasera, che vuoi rompicoglioni? Ciao, Parenza, hanno detto che sei brutto. Io un giro con te ce lo farei. Ah, tu lo faresti un giro con Parenzo? Amore, Parenzo nasconde delle doti pazzesche. È l'uomo più sexy della radio. Io mi chiuderei una settimana adesso con però lui e la mia amica Malena. Una cosa a tre mi piacerebbe. Beh, molto bene, ti prego. Io ti ringrazio. Lusingato. Lo devi accettare. Grazie. Ma perché no? Grazie. Il gay un po' ciccione, non ti piace un po'? Ma no, ma non perché è ciccione, figuriamoci, non mi interessa allora, niente. Basta di dire ciccione. Ciccione è una parola che non si dice. Avete rotto i coglioni con queste parole. Bisogna usare le parole giuste. Ma tu vai dalla D'Urso, vai dalla D'Urso e mi dici a me in un posto giustamente che è il top per me dell'irregolarità, del trash. La D'Urso, detto la nel senso sacra. La D'Urso è sacra, non si tocca. A me lo dici, okay? A me lo dici, ma non è questo il punto. Vai lì, parli in un certo mi fai il precisino sulle parole. Ma dai, su, ragazzi. Sì, il precisino delle parole, perché le parole hanno un peso. Basta dire queste parole orribili. Fausto Leali in galera lo devono mettere. Non buttare fuori dalla casa del bravissimo, grande fratello, perché vi ricordo che oltre a 6 milioni di morti nei campi di concentramento sono stati anche 2 milioni di omosessuali ammazzati per bravissimo. Questo motivo, o erano molti meno. Bravissimo. Non è la stessa cosa. Allora fermi un attimo, scusa Giovanni, ti togli un attimo l'auricolare o via voce, scusa. Non so, non sento un cazzo, scusa, sento poco. Sono attaccato al telefono con l'orecchio e ti sto parlando dalla cornetta. Allora, io dico semplicemente una cosa. Non capisco perché voi in privato, e non solo in privato, vi chiamate tranquillamente frocio, checca. Basta, anche questa cosa bisogna smetterla. Ma come smetterla? Che vuol dire non smetterla? Non esiste più, basta parlare al femminile, basta parlare tutte queste cazzate. Dobbiamo andare avanti. Le Malgioglio sono finite. Il mondo è ragazzi, mi richiamate un attimo, mi richiamate un attimo Giovanni, per favore, richiamatemi un attimo Giovanni. Richiamate. Francesco da Milano, vai Francesco, dimmi. Ciao, guarda, io intanto posso confermare che tanti amici omosessuali si chiamano frocio tra di loro, dicono quello è frocio, quello non è frocio. Ma sì, quindi dai, mi sembra un po' una moralista. Sono contento che tu abbia riconosciuto dopo tanti mesi, se non anni, l'esistenza della demisessualità, dopo aver attaccato a tutti i modi. Non l'ho mai attaccata, ho detto semplicemente che è una patologia. Ma come è una patologia? Ho detto che è una patologia, perché è chiaramente una cosa, è una cosa contro natura, cioè è assolutamente una cosa contro natura. Cioè avere desiderio sessuale nei confronti di una sola persona, in particolare una persona con cui c'è un forte legame emotivo. Ma non vuol dire una sola persona, non vuol dire. Che ci debba essere un coinvolgimento di tipo intellettuale. Di solito che, ce l'hai. No, insomma, ho capito. Ma però, no, ragazzi, allora, abbia pazienza. Abbia pazienza. Allora, io non capisco questa cosa, Francesco. Però lei come può provare attrazione sentimentale profonda nei confronti di una persona prima di averci scopato? Di solito capita dopo. Lo scopare è la prova generale dell'amore. Poi, se ti trovi bene. Lo scopare è un discorso, ma non vuol dire che per forza uno della narrazione deve essere sempre improntata a quella, la vedo, la scopo. Ma non ho detto questo, ho detto semplicemente una cosa. La demisessualità è un orientamento sessuale che consiste nel provare attrazione sessuale solo per persone con cui si ha un forte legame emotivo. Ora, chiaramente, come dici tu, non è che uno deve essere per forza monogamo, però di solito è la monogamia questa roba qua, non è che uno ha un forte legame emotivo con 10 persone, con 10 persone in contemporanea. Ce l'hai con una persona, no? Personalmente ti posso dire che assolutamente non ha a che fare per forza con la monogamia. Ma sì, è chiaro che ha a che fare con la monogamia, ma non è vero, ma con chi hai forti legami emotivi? Con 10 persone insieme, non ho capito, cioè dai, su. Perché no? Ma sì, è possibile, il linea d'orica è possibile, però corrisponde sostanzialmente alla monogamia. Diciamo che non tutto deve rientrare per forza, insomma. Vabbè, Francesco, ho capito. Ciao. Allora, ritorniamo a Giovanni, se lo sentiamo, ritorniamo. Lo sento? Ti senti? Sì, più o meno. Allora, ti stavo dicendo una cosa molto importante. Basta, il mondo gay, non esistono più i Malgioglio, quella è roba vecchia. Ma che vuol dire non esistono più i Malgioglio? Non ho capito. Tu, quando mi parli di parlare al femminile, quando mi parli di... Ma ognuno parla come vuole. No, le parole hanno un peso. Quel mondo... Se io ti chiamo Frocio e Finocchio, ti insulto? Sì, mi insulti. Ma che dipende come te lo dico. Se ti dico frocio di merda o finocchio del cazzo, sì. Insulti, scusa. Ha rotto il cazzo, ma vaffanculo, scusa. Ciacci, sei frocio, sei un finocchio. No, sì, no, sei un finocchio. Okay. Ma anche no, gay, ma non rompere i coglioni, anche gay, ma anche gay è stupido. Ma anche gay è stupido, scusi. Perché gay vuol dire felice, no? Lei è sempre felice, ogni tanto sarà triste. Sono un ciccione come lei. Sono un ciccione come lei. E ma sono io, di essere un ciccione. Innanzitutto ciccione, io trovo stupido definirsi gay. Allora, fermi la ragazzi. No, perché mi dà del bella? Però, scusami, e perché mi dà del bella allora? Perché mi dà del bella? Che ha appena detto che è stupido dare del femminile, mi dà del bella. Allora, ragazzi, vi volete fermare un attimo, per favore? Vi volete fermare un attimo? Questa commissione, fino a prova contraria, la conduco io. Dunque, gli inserimenti delle persone li decido io, ok? Bravo. Per cui, sennò non si capisce un cazzo. Chiaro? Questo vale parla? Per Gottardo e vale per Parenzo. Allora, io voglio capire una cosa: se io ti do del frocio, sì, mi offendi. Ma non è vero che ti offendi, te l'ho detto mille volte. Dai, su, ma te l'ho detto. No, ma dobbiamo. Allora, bisogna, Cruciani, cambiare questa abitudine. Questa abitudine va cambiata. Basta. Ma se io ti dico sei una finocchia, ma che problema c'è? Non me lo devi dire, sei stato sempre contento quando ti ho detto che frocia che sei. Bisogna cambiare, bisogna cambiare assolutamente questo atteggiamento e queste parole. Come non si deve dire più la parola è negro, come non ma si deve dire come la lo parola dici. Ciccione, esatto, come esatto. Non si deve dire più la parola troia, tanta roba. Ma troia, uno è contenta, molte donne, se le dici sei una troia, sono contentissime. Tu stai denigrando il corpo femminile, come quando mi dici facendo del body shaming. Ma quale body shaming? Se ti dico che sei ciccione, sovrappeso, è uguale, sovrappeso e ciccione. Non è che ti dico ciccione di merda, Giovanni, dai, su. No, le Giovanni, parole hanno un peso, ok? Bene, però dunque Feltri dovrebbe andare in galera come le ali, sì, no? Sì, Feltri dovrebbe andare in galera come le ali, certo. Multato, che deve andare in galera. E Adinolfi, no, Adinolfi che dovrebbe fare? Adinolfi deve andare a fanculo proprio, direttamente a fanculo deve andare. Ma che c'è Adinolfi? Ha le sue idee, pensa che la famiglia... Ma io sono contrario a quello che dice Adinolfi, ma che vuol dire? Ti ricordo che Adinolfi non voleva nemmeno che io ballassi con un uomo ballando. Ti dico solo questo, lo ricordi? Pazzesco. Ma non è che non voleva, diceva che non dice che c'è la lobby gay che comanda. Però vedi, Ciacci, ti ho detto una cosa vera. Ciacci ha ragione, sì. Ciao caro, no, Ciacci, c'è una cosa verissima. Perché un conto è una battuta, chiamare in un'intimità, frocia, zia, ciao, amore. Nell'intimità ha un senso, ma detto fuori invece non ha nessun senso ed è volgare e cattivo. Bisogna toglierlo anche dalla intimità. In che senso dall'intimità? Cioè io ho una donna con cui scusami Ciacci, io sono Alberto Gottardo, così mi presento, non si incazza più. Buonasera. Ciacci, ma quindi io ho una che sto trombando, non posso dire che è una troia nella mia intimità, secondo lei? Non glielo devo dire. Ma ho trovato una mezza dozzina di donne che erano lusingate quando la guardavano in silenzio. Nell'intimità del mio letto farò quel cazzo che voglio. A me, se mi dicono troia a letto, ti do un tappo che l'attacca al muro. Cioè, se un uomo ti dice sei una gran troia quando scopi, a te ti sta sui coglioni questa cosa qua. Certo, gli do una manata, l'attacca al muro. Ragazzi, bisogna iniziare ad usare le parole con un certo peso. Cioè, se io ti dico che sei un frocio passivo, per esempio, cioè, ma io te manna a fanculo, basta, Cruciani, tu sei un uomo intelligente, ma non lo dico, però chi lo dice non deve essere condannato dal tribunale di Ciacci ed è politicamente corretto della minchia, non dal tribunale, deve essere condannato per legge, come il discorso degli eter, per legge, cioè, tutta una per legge. Chi pronuncia la parola frocio va condannato per legge. Se io dico una mia amica che è una troia a letto con me, deve essere condannato per legge. Arriva il vigile urbano in camera mia, no? E mi fa la multa perché ho dato della troia a una che sto. Pubblicamente. Ti tira le scatole e ti denuncia perché gliel'ha detto, saranno calmo di voi. Però scusami, Giovanni, la parola troia, posso dirti una cosa? La parola troia, ti posso assicurare dalla mia, come sai, considerevole esperienza in campo femminile. È un complimento. La parola troia, come sai, la parola troia è apprezzata anziché no? Adesso uso allora, ovviamente questa, no, questo modo no, barocco di dire le cose. Sicuro, è apprezzata anziché no. Ti assicuro, se una donna gli dici, cazzo, a letto sei una gran troia. Tu sei più giovane di me e non hai conosciuto Moana Pozzi. Io con Moana ci ho lavorato. A Moana Pozzi nessuno gli diceva troia in coccia. Vabbè, ma che vuol dire? Ma ognuno c'ha le sue cose. Ma ho capito. Ma sono cazzi suoi. Ma cosa vuol dire? Ma poi c'ha ragione. Sa di donne, Ciacci, scusi. Cosa ne sa lei di donne? Ho lavorato con tutte le più belle del mondo. Solo che ora l'amico Ciacci si è dato politicamente corretto. Una volta io ti incontravo e ti dicevo che finocchia, che sei, che frocia, ridevi insieme a Malgioglio. Adesso deve cambiare questa cosa. È come se uno passa accanto a te e dice Puzzi. Ma no, guarda che me lo dicono ogni tanto me lo dicono, ma insomma non mi offendo, mi faccio poche delle cose che non vanno dette. Scusami un attimo. Dunque tu la parola negro, le ali lo metteresti in galera. Ma una multa. È come quando ha fatto apologia di reato sul fascismo. Ma che apologia? Cioè, ha detto Mussolini. Ma qua l'apologia di reato era per colpa del duce, a quest'ora stavo al confino. È apologia di fascismo. Dopo le leggi razziali stavo in un campo di concentramento. Bravo. Quindi non rompetevi i coglioni su questa cosa. Bravissimo. Capito? Perché mio nonno è stato nei campi di concentramento. Certo. E va bene, ho capito. Ha detto che ha fatto delle cose buone. Mica ha detto che è il suo idolo. Ha detto delle cose buone. Lo dice pure Sgarbi che ha fatto delle cose buone. Adesso vuoi mettere in galera. Vittorio sbaglia. Perché Vittorio è un provocatore e a volte sbaglia. Però non puoi dire che Mussolini ha fatto le cose buone. Già con le leggi razziali Bravissimo. È la cosa più brutta che possa aver fatto al mondo. Lui è l'amico suo tedesco. Basta. Ma basta, non bravo, devo parlare. Ciao. Grazie per quello che hai detto. Ciao, ciao, Giovanni. Ciao. La Zanzara. E niente, quindi ho appena appreso alle ore 19:36 che Parenzo c'è il cazzo piccolo. Davide Parenzo su TikTok, mamma mia, allucinante, mamma mia. Laura, allora Giovanni da Foggia. Giovanni, vai, dimmi. Camerata, onore al duce. Beh, onore al duce, camerata, a me non me lo dici perché non sono il tuo camerata. Onore al duce, perché che cazzo vuoi stasera? Lo faccio anch'io come Parenzo. Parenzo, non fare scherzi perché ti apro le gambe come una gallina. Mamma mia. Ma non ho capito, tu sei fascista, Giovanni? Fascista. Ma perché non lo sai che io sono fascista? Ma sei anche coglione. Lo dico sempre che sono fascista, camerata, onore al duce. Sei anche coglione però, oltre che fascista ovviamente. Parenzo, io non voglio parlare con te, sporco comunista di merda. Penso sia di merda. Sporco comunista di merda. Merda. Non ho capito Giovanni, qual è la natura del tuo intervento, semplicemente per proclamare la causa del per mio proclamare ancora una volta contro di te. Benissimo, per proclamare ancora una volta che sei fascista? Lo sappiamo, che sei fascista. No, e allora, voglio dire che stasera sono contro di te perché una donna non dire che bella troia. Se è la ma tua non ho donna, detto che bisogna dirlo sempre. Tuo, ma ho capito, non è che dico una bella troia senza conoscerla, cretino ma di un Giovanni. Ma tu puoi dire una donna che non conosci che bel culo, che bella figa, che belle teste. Sì, ho capito. Pronto. Ma perché no? Non ho capito. Vedi che ogni tanto ragiona pure sto poveretto. Ogni tanto glielo puoi dire, dici, sei un cafonaccio. Tu dici, Parenzo, che ogni tanto puoi dire che bella donna. Dico solo che il muro della bellezza. Ma non gli puoi dire direttamente, ecco, che per culo, cioè, che questo hai. Qua dice le peggio questo, cose, no, Parenzo deve morire, esatto, ti spezzo le gambe, viva Mussolini, però io non posso dire, capisci la follia, non posso dire a una donna che ha delle belle cose. Non puoi dire a mia moglie che bel culo che ha. Cioè, ma se la incontro, se nessuno glielo dice, perché sarà sicuramente un cesso a pedali, ma il tema non è questo. Il tema è fare in culo, comunista di merda, non ti scaldare. Non ti scaldare, non ti scaldare, non ti scaldare. Ritroviamo un tono civile, ritroviamo un tono civile. Ritroviamo un tono civile. Io non sto parlando non con te. Non scaldiamoci, non scaldiamoci. Aspetta. Io non sto parlando con te. Non scaldiamoci. Metti a tacere. Non scaldiamoci. Mettiamo a tacere questo gabinetto di Foggia. Questo gabinetto. E ritorniamo civili. Perché si arrabbia? Ho detto. Al massimo si dice se è un figlio di puttana. Ho detto, ritorniamo civili, metti a tacere questo Vespasiano sporco e torniamo civili. Ma io non ti sto insultando, ho detto metti a tacere questo Vespasiano sporco, sei più sporco di un gabinetto della stazione centrale di Milano. La cosa incredibile, Giovanni, stai zitto. Sei più sporco di un gabinetto della stazione centrale di Milano. Fermi tutti e due, Giovanni, la cosa incredibile di Giovanni è che in questa trasmissione dice le peggio cose: sei un figlio di puttana, una testa di cazzo, una merda, eccetera. Ma uno ti dice io con te non voglio parlare, stai zitto, tu devi stare zitto perché sei un ospite di questa trasmissione. Io telefono alla Zanzara e dico io che quella persona deve tacere. Ma sei un poveraccio sei un poveraccio, ma per carità, tu Giovanni, ma io però non ho capito, ancora non ti hanno arrestato, sei un poveraccio, ma non ti hanno arrestato per apologia di fascismo. Quel finocchio che c'hai a fianco a te, ma non è un finocchio, no, non sarebbe un finocchio, in questo caso la parola finocchio, però se io ti dico con quel detto finocchio lui, io non ci voglio parlare, però, deve tacere. Ma per te, perché dici la parola finocchio? Io sono una persona civile, se ti dico che civile. Con te non voglio parlare, no, ferma tutto, una persona civile di non rispondere, ferma, rewind. Hai detto nell'ordine: uno, sono fascista, viva il Duce; due, hai detto una marea di parolacce, e poi dici che sei civile. Tu sei un cesso sporco della stazione centrale nell'ora di punta. Questo sei, altro che civile. Fermi tutti, dici che io sono una persona civile? Gabinetto! Io toglievo la bandiera del comunista e andavo a mettere sotto c'entra? Il culo delle mani. Ma che c'entra? Ma chi se ne frega di quello che facevi tu? Tempo da perdere, c'avevi. Io voglio capire una cosa da Giovanni da Foggia, a conclusione di questo. Ma non mi interessa, stai giù un attimo, sennò ti chiudo il microfono. Allora, Giovanni, io voglio capire una cosa. Tu. Io sono una persona educata, incredibile, una persona civile. Cazzo, Giovanni da Foggia dice a me, dopo quello che ha detto, che io non posso dire a una donna che ha delle belle tette e un bel culo. Vi rendete conto della follia di questo Giovanni da Foggia? Perché sei un poveraccio, questo è il problema. Sei un poveraccio. Ma come cazzo ti permette tu di dire a mia moglie che c'ha un bel culo? Se la vedessi, se la incontrassi, magari potrebbe venirmi in mente. Ma anche un'altra donna che non conosci. Ma sicuramente tua moglie non ha un bel culo. Che, come dice questo, Parenzo, questo è sicuro al 100%. Sarà una con un culo enorme. Ti sta aspettando a casa a Foggia, di quelle con un culo enorme che si poggia sulla sedia, sul divano, con un culo enorme, grassa. Con un culo città, perché quando parli di Foggia ti devi sciacquare il culo. Guarda, Foggia è una delle città più brutte d'Italia, Giovanni, non mi rompere i coglioni. Mamma mia, ragazzi. Nicola da Venezia. Sì, io faccio parte. E non è finita, Nicola, dimmi. Io faccio parte di quel club vergine trentenni. Ricollegandomi. Tu sei vergine trentenne? Sì. Ma ragazzi, quanti anni hai esattamente? 30, 31, 32? Quanti ne hai? Vado per i 34 fra poco. Tu mi stai dicendo che a 34 anni non hai mai scopato, Nicola? Ma io non è possibile, io sto scoprendo un mondo. Avrei fatto un libro solamente su queste cose qua. Avrei fatto un libro solamente su queste testimonianze qui. Nicola, dammi la prova che sei vergine, però. Come faccio? Come è dimostrabile questa roba qua? Se Gottardo vuole, io sono molto vicino, vado fino e che fai? E come dimostri? Allora, che sei faccio la visita. No, perché la ragazza ha detto che voleva averla nel letto. Se vuole vado nel letto e controlla. No, ma come fai a controllare? Nicola, come fa uno a controllare se sei vergine o no? Comunque, credo che appunto, ma non è possibile che tu a 34 anni sei vergine, non è possibile. Allora, Cosa posso dirti? Purtroppo sì, sono vergine. Ma come sei arrivato? Non lo vedo perché purtroppo. Ma come sei arrivato a 34 anni? Ma no, ho avuto insomma abbastanza estroverso, normalmente sono estroverso, ma con le donne sono abbastanza timido e non ho mai avuto l'occasione. E porta gli occhiali, il nostro amico di Venezia? Sì, porto gli occhiali, sì. Vedi, allora è vero che si perdono le diottrie. Che mestiere fai? Che mestiere fai, Nicola? Ti masturbi almeno o no? Sì, quello sì, per la prostata. Mamma mestiere, mia. Sono manager in una società internazionale. Sì. E non è mai andato a puttane neanche una volta, scusi? No, sono abbastanza tirico da quel punto di vista. Ma allora non le piace, ma allora semplicemente ragazzi, non le piace. Allora, la credibilità di questa cosa, 34 anni, manager, no, timido, ma no. È quasi zero, devo dire la verità. Non c'è nessuna prova, purtroppo. Allora, bisognerebbe andare a pescare in questi gruppi di asessuati, di gente che si proclama davvero chiaro, così e lo dice. Chiaro. Uno che chiama e dice sono vergine a 33 anni, non capisco perché non lo dica, ma non è credibile. Cioè, Nicola, non è credibile. No, non è per dirlo urbi e torbi, è solo per dire che sono persone e non siamo strani, cioè quello sei malato, mettiamo che sia vero, sei malato, se a 34 anni non hai ancora trombato, sei malato, hai un problema, devi andarti a far curare, ma mi pare evidente. Ma curare da chi? Ma perché dovrei farmi curare? Ma perché sei arrivato a 34 anni senza trombare, senza aver messo l'uccello dentro una figa? Spiegami, te lo dico in maniera brutta. Ma è impossibile. E adesso ho altre cose da fare. Che vuol dire altre cose da fare? Ma che c'è di meglio? Un lavoro, cioè, casino. Ma vai a cagare. Fermo. Ma cos'è? Ma dai. Chiedo scusa, un momento. Chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. Domenica 20 settembre, ore 12:26. Stiamo percorrendo la A27 direzione Venezia ed è senza dubbio il giorno migliore perché non ci sono quei cazzo di tir di merda che ti superano a 2 km orari in più di te e occupano la carreggiata. Camion di merda. Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti. Vi presenta La Zanzara. Ma io che non mi scopo una ragazza sposata perché mi dispiace per il marito, sbaglio? Madonna, ma basta parlare di sto cazzo di pene lacerato, rotto. Madonna, sto guidando tutto irrigidito, sono tutto tirato, tutto impressionato. Secondo me la frattura del pene fa lo stesso rumore di quando spezzi la buccia di un cocomero. Giovanni da Firenze, gli ascoltatori di prima si riferivano a un intervento di un medico, di un chirurgo ieri dalla Francia, che ci spiegava il fatto che molte persone si rivolgono a lui perché si rompono il pene, si fratturano il pene. Però mi ha stupito perché dice che in 10 giorni passa tutto, cioè tu arrivi con una pene, con un cazzo che sembra una melanzana, tutto tumefatto, tutto viola, eccetera, e in 10 giorni dice che si può ritornare a scopare. Va, Giovanni da Firenze, vai, dimmi. Ciao Cruciani, ciao Parento. Dimmi. Quel viscido di Gottardo neanche lo saluto perché è un essere immondo, inutile salutarlo. Sta facendo un trattamento sanitario perché mi serve per problemi trattamento sanitario obbligatorio stai facendo. Ho dei problemi fisici, quindi devo dimagrire. Altrimenti non scopi più neanche se. No, ma quello scopo lo stesso, sai? Giovanni, allora ti lascio col dubbio. A parte le gottardate inutili, volevo semplicemente riallacciarmi al fatto della minigonna, perché come dice il buon Parenzo non si tratta di appunto imporre un dress code, però si tratta semplicemente di buon senso. Non ci si può presentare a scuola con una mini donna, si tratta di buon senso. Ma non dite cazzate. Bisogna, ma anche ad un colloquio di lavoro uno non si presenterebbe mai con dei jeans strappati, scusa. Ma ragazzi, ma cosa c'entra un colloquio di lavoro che è una cosa unica, che succede in un giorno, in un paio di ore, con il fatto che uno ogni tanto va a scuola, una ragazzina può andarci con una gonna stretta, con una gonna corta, ma di che parlate? Bisogna presentarsi in un certo modo, bisogna presentarsi in un certo modo. Ma vattene a fanculo, va, ciao. Ha ragione. Ciao. Io chiamerei Lores, Parenzo, però parlaci tu, ha preso Flores, credo... Lores da Vicenza, che ha preso meno di 20 voti. Ah, certo, volentieri, volentieri. Pronto? Lores? Sì? È andata maluccio, eh? Chi parla? 17 preferenze, dai, su. È andata male. Chi parla? Sono Parenzo, cara. Parenzo. È andata male? È andata maluccio, direi. Maluccio, maluccio. Beh, senti un po'. Abbiamo un presidente del consiglio che non ne ha mai presa neanche una. Abbiamo la Lamorgese che non ne ha presa mai neanche una. È un prefetto. Io potrei essere presidente della Repubblica. Ma giusto? Dico, ma di quale Repubblica? Ma non ti hanno votato neanche i vicini di casa, perché siccome ti conoscono e ti giudicano una rompicoglioni, neanche quelli ti hanno votato. Sì, ma sta attento. 17. Io fossi te, mi chiuderei in casa dalla vergogna, proprio a 10 mandate, tum, tum, tum, tum, in casa, abbassando le saracinesche al buio, perché 17 stai persone. Zitto, cane rognoso, stai zitto, cane rognoso, Ma la vergogna non vi fa, ma la vergogna non bussa alla vostra porta. Di chiamarmi, ma la vergogna non bussa mai alla tua porta. Stai zitto, cane rognoso, aspetta, c'è la vergogna. Crotani, che ti sei un coglione come Dumo. Ma perché sono un coglione? Ci ha accomunato tra i coglioni. Perché l'hai mandata allo sbaraglio. Hai mandato la povera squinternata allo sbaraglio. Tu hai preso un matto, lo hai candidato, Cruciani. Senti, sinistro, la squinternata, tu squinternata. Devi imparare a rispettare le donne. Chi siete le donne? Devi imparare. Ma io le rispetto molto. No, ho detto che rispetti. Sei una squinternata. Che c'entra le donne? Ma non è le donne, è la squinternata, non è le donne. No, gli io uomini, sono una dico. Donna. Sei una donna, ma anche una squinternata. Tu sei un sinistro del cazzo. Ma squinternata non è una brutta parola. Delle donne, però dopo non rispettate ma nessuno. Ma cosa c'entra rispetto delle donne? Ho detto che sei una squinternata. Che vuol dire? Squinternata mica è un'offesa, squinternata. Però no, allora diglielo a tua mamma allora che è una squinternata. Non lo è, se non è un'offesa. Siccome non lo è, non lo è. Tu sei una simpatica squinternata. Ma Lores, io invece ti ringrazio, Lores. Sai, Lores, sono Gottardo. Ti ringrazio perché hai partecipato ad un progetto democratico. E io credo che tu, il fatto che tu insulti Lores è vergognoso, perché lei si è candidata nell'alveo della legge italiana, ci ha messo la faccia. Ma cosa sei, Cassese? Ma chi sei, Sabino Cassese, nell'alveo della se ti candidi tu, Parenzo, non ti vota un cazzo di nessuno. Ma tu stai scherzando, io quando sono stato eletto, candidati, ma io quando a 19 anni, quando a 20 nel culo ti prendono, io quando a 20 anni mi candidai, fu eletto, caro, e sono stato pure capogruppo. Ma ti ho battuto anche all'elezione liceo. Capogruppo in circoscrizione. Io quando mi sono candidato sono stato pure eletto. Ziti tutti e due. Allora Lores, manda a fare in culo Parenzo. La differenza di sta squinternata. Anche tu ti mando a fare in culo, ma la grande. La vecchia mappa. La leonessa, la leonessa. Dai, vedi. Su. Il mostro ti si è rivolto contro. Ma vedi, è un classico. È una vecchia mappa. Ma io lo dico, a Cruciani glielo dico in tono affettuoso. Sì, non è bene, come bene, con bene. Te. Con te, Parenzo. Smettila di rompermi i coglioni. Io non ti ho mai chiamato. No, ho detto solo che sei una squinternata simpatica. Cruciani, no? Scusami, la zanzara. Scusami. Allora, se voglio capire una cosa, ma ancora hai quelle parole, ancora pensi certe cose del sud? Sì, naturalmente. Il sud. Ma lo sai che io non del sud non me ne frega niente, dai, Cruciani. Non è Italia, dici, non è Italia, dici. È Italia, ma noi siamo veneti, Cruciani. Cosa me ne a me l'Italia interessa come la Francia, l'Austria, solo che l'Italia è qua e sbaffa, hai capito? Perché altrimenti non mi interesserebbe niente. Cosa fanno qua in Italia? Sbaffano, ci mangiano tutto, 16 miliardi all'anno di residuo fiscale, 500 euro al secondo, toc, 1500, 1500, 2000, 2500. Ma cosa pensi di essere ogni Tremonti? Secondo 500 euro ci ma chi derubero. Sei Tremonti? Sei tu? No, sei la Lores da Vicenza, cazzo, non sei Tremonti. Per fortuna, mamma io sono mia. Felice. Mamma mia, ragazzi, comunque impazziti tutti. L'altro che fa il Leguleio che sembra il presidente emerito della Corte Costituzionale. Ci ha messo la faccia. Questa che si mette a dire quanto è il Tremonti dei coraggio, poveri. Mamma mia, io mi sono già candidato. Benissimo. Allora, fermi tutti. E ho vinto. Fermi il consiglio tutti, di quartiere. Sì, vabbè, fermi il solito consiglio casino, quartiere. Come sempre, che parlate tutti e tre non si capisce un cazzo. Brava, continuate, ecco l'altra. Brava, ecco continuate. L'altra. Però voglio capire una cosa. Che considerazioni fai di Napoli tu? Le solite, no? Ma Napoli è quello che è, poverini, cioè, lo sai? Cioè, ma oltretutto, ma guarda te. Hanno un cesso di sanità, sono pieni di camorra, sono pieni di tutto e di più. Sono proprio un disastro e hanno rimesso l'acqua il poro can De Luca. De Luca, beh, numero uno De Luca, governatore del mondo. Non ti piace? Ma per Crozza, perché fa i testi per Crozza, per far ridere. Ma prende un sacco di voti lì, De Luca è numero uno, governatore prende un po' più dei tuoi. Cosa ti dimostra? Cosa ti dimostra? Cosa? Che i napoletani sono quella roba lì. Ma quindi prende voti in tutta la Campania. Tra la là, hai capito? Ma cosa sono i napoletani? Hai preso 17 voti tu e critichi De Luca, 17 voti hai preso, 17, ma io starei zitto fossi in te, starei zitto. Ti ho visto prima sulle 7, ecco, ma esatto. Proprio schifo, cazzarola. Adesso non è, chi ha parlato Brigitte Bardot? Scusami però, scusi Sofia Loren, scusi. Mi metto sulla mascherina perché mi non sono un negazionista. Sì, hai visto, ma che sono uscito. Ma ti niente, no, un negazionista. Ho detto, vedo che l'hai seguita tutta però la trasmissione. Mona, brava, brava. Brava. La metti la mascherina o no? Beh, dove sono obbligata, sì, ma se posso fare, cioè dove non sono obbligata, no. Sei obbligata perché altrimenti si spaventano pure i gatti. Te la devi mettere perché altrimenti si spaventano pure i gatti. Ma questa gara, quella merda spussona lì, che non mi perché ha capito. Spussona? Cosa che perché tu spussona? Perché ma perché spussona? Te la prendi tanto con me? Io quando ma chiamo no, ho detto solo 17 non voti, voglio fine. Neanche non voglio neanche sentirti, 17 perciò è assurdo voti. Che tu mi parli, uno, hai capito? Uno, fermi tutti, sette. Ciao, ciao uno, Lores. Ciao. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Oggi parliamo di cuckold. Cuckold è in traduzione diretta è cornuto. Significa un uomo che vorrebbe che la sua moglie abbia relazione sessuale con uno o più maschi vari nei vari periodi di tempo e vorrebbe sbirciare, insomma, su questa cosa. La Crucea ci ha rotto il cazzo con sto sdoganamento del piallo al culo, cioè basta, non se ne può più. Smo, sei arrivato a dire che tu lo prendi al culo come lo prende al culo una ragazza. Se per te questo è normale, se per te questa è passione, se per te questo qua è prassi, fallo, ma non ci rompe i coglioni a noi. Tu chiedi qual è la differenza tra un uomo, tra perché loro sì, le donne e noi no. Semplicemente perché è una cosa mentale, un'attitudine. E noi doniamo e loro ricevono, questo è, non ce n'è altro. Se tu vuoi ricevere, che sei maschio e vuoi ricevere, vai a ricevere, indo cazzo te pare a te, ma non ci rompe i coglioni a noi, in radio soprattutto. Devo dire a questo gentile ascoltatore che in realtà io non impongo niente a nessuno, io sto dicendo semplicemente che ormai, come ha detto Efe Ball qualche giorno fa, prenderlo in culo è diventata, anche da parte degli uomini, è diventata una cosa assolutamente normale. Non c'è da scandalizzarsi, se Parenzo si scandalizza, non è colpa mia, no, se, lui pensa, se lui pensa che non sia normale prenderlo in culo per un uomo, ma e se lui pensa che è una cosa riprovevole, ma sono affari suoi. Cioè, io penso che sia una cosa assolutamente normale, che siamo nella normalità anche per un uomo oggi provare il sesso anale, cioè essere un po' passivi sia una cosa normale. Capisco che tu non voglia essere passivo, Davide, capisco. Ti posso dare una delusione fortissima e mi dispiace doverla dare. Non vuoi essere passivo. Ma ti chiedo scusa davvero, cioè, mi sento quasi in colpa, ma ti giuro no. Non so che io. Ma non è che, non oh, è che mamma mia. Cioè, se uno invece vuole essere un po' passivo, ma se uno lo vuole prendere in culo, ma sarà una cosa normale o no? No, ma devi trasformarlo come una perversione, ma io non voglio come una cosa strana, come una cosa bizzarra, come una cosa oddio, lo vuole prendere in culo. Se uno ti confessasse, un tuo amico ti confessasse, guarda, ieri sera l'ho preso in culo, tu lo guarderesti strano, diciamo la verità. Lo guarderesti in modo strano, e questo è il tabù. No, sì, lo guarderesti in modo strano. No, ci mancherebbe. Insomma, sai, sì, lo guarderesti in modo strano. Mi ha stupito questa confessione che tu hai fatto, che hai praticato alle volte con dei transessuali queste pratiche. No, non l'ho mai detto. Mi ha un po' stupito questo, però ti accetto anche per come sei, ma non c'è nessun problema. Non smentisce, non smentisce. No, non l'ho mai detto. Ho detto senti l'altro che mangia. Senti l'altro che mangia. Ho detto semplicemente che prima o poi verrà il tempo. Prima o poi verrà il tempo per confessare. Se mai avessi fatto certe cose, verrà il tempo di dirlo. Cioè, non, semplicemente non è che non smentisco, non dico né sì né no. Intanto abbiamo il nostro amico Gentleman 73, che è un bull, per capire come è andata l'estate insieme alle coppie. Un bull, uno che si scopa, si scopa sostanzialmente. Un bull si scopa, bull? L'abbiamo già sentito. Credo tra l'altro che sia trentino, se non sbaglio. Abita in Trentino Alto Adige, se non sbaglio. Gentleman, buonasera, come andiamo? Beppe, buonasera, un saluto al dottor Parenzo. Buonasera. E ben ritrovato Gottardo, il signor ben ritornato tra di noi. Signor Bull. Trasmissione, sì, ho studiato poco, per carità, per intervistare il signor Bull. Vabbè, benissimo, evviva. Il signor Bull. Beh, se vuol farmi sono qualche passato, domanda, si sente pure libero. Come ha passato la sua estate? Sono passato dall'intervistare il ministro Gualtieri in onda a intervistare il signor Bull. Esattamente, il signor Gentleman 73. Dottor Parenzo, io posso partecipare? Se vuole alle sue trasmissioni per alzare lo share, le posso dare una garanzia. caro sicuramente Bull. Le argomentazioni che posso Bull. Portare sono più diciamo vabbè, popolari, certo. Più interessanti. Comunque ho passato delle ottime vacanze tra montagna, arrampicare e ovviamente dedicandomi al mio hobby preferito, scopare le donne degli altri. Scopare le donne degli altri, ecco, ma è stata un'estate proficua da questo punto di vista, Gentleman? Ci puoi raccontare qualche cosa? No. Qualche dettaglio, certo, qualche storia interessante, qualche coppia nuova? Che frequenza c'è stata nei tuoi incontri? Sempre se la telefonata si sente, perché stasera le telefonate si sentono rimbombare nel nulla, per cui togli via voce, auricolare, eccetera. Dimmi, Gentleman. Non preoccuparti, Giuseppe, nessun auricolare. Dimmi. Ecco. Allora, niente, ovviamente le mie classiche frequentazioni sono rimaste fisse, ma ho avuto un incontro con una coppia incredibile. Praticamente sono stato contattato su questo noto sito di annunci e questa persona mi ha contattato, mi ha detto: io vorrei che tu scopassi la mia donna, però ha posto una condizione. Sì. Io voglio essere maltrattato, mi ha detto. Io pure. Personalmente... Sì, io personalmente sono rimasto. Ma in che modo maltrattato? Maltrattato verbalmente. Anche questo, però scusami, il turpiloquio nei confronti dell'uomo che assiste. No, ma diciamo, era la mia prima volta. Mi fate capire un secondo, se ho capito bene, forse non ho sentito. Forse non ho appreso bene. Stiamo parlando di questo bull che si accompagna con donne degli altri. E dice che è stato contattato dal marito. Corretto, finora? Sì. Il quale dice: per favore, occupati di mia moglie, cioè fai l'amore con mia moglie, e nel frattempo io guardo e mi maltratti. Allora io ho rispetto per tutto. Adesso andiamo sui dettagli. Tu rispetti tutto, Davide? Non ho capito. Ecco, però considerare normale questo, normalissimo. Normale. Ogni persona può godere in tanti modi. Può godere in tanti modi. Questo signore qui, non Gentleman, è cornuto e scemo. Ma non ho capito. Ma l'altro gode in tanti modi. Le persone godono in moltissimi modi, anche a essere umiliati. Cioè, c'è l'umiliazione. C'è questo qua. Viene per farsi umiliare. No, paga no, perché non c'è passaggio di denaro in questo caso. Gentleman, esatto. Gentleman lavora gratis, non viene pagato. E scopa la moglie di questo signore, il quale nello stesso tempo viene umiliato, credo verbalmente, ma se Gentleman ci racconta i dettagli. Assomiglia molto alla situazione degli iscritti al PD, se ci pensi un attimo. Fammi sentire questa cazzata. Qual è la metafora? La metafora del PD non ho capito. È come il PD maltrattato. Cioè, c'ha il Movimento 5 Stelle che non maltrattava verbalmente fino all'altro giorno. Ci devono fare il governo insieme. C'hanno il ministro degli esteri che è Di Maio. Non ho capito un cazzo. Gentleman, allora dimmi. Allora, i dettagli quali sono, gente? Allora, ci siamo trovati a bere un aperitivo in Piazza Duomo, Trento, un locale anche molto vicino. Sì. E io devo dire, di partenza ero abbastanza inibito a fare questa cosa qua, perché era la prima volta che mi capitava di maltrattare veramente uno. Ma mi sono trovato di fronte ad una persona spocchiosa, ok, arrogante, e oramai un direttore di banca molto potente in pensione. Vabbè, okay, non c'è bisogno di... No, ma è assolutamente anonimo. Cioè, vabbè, gente, una di quelle persone che mi avrebbe negato il prestito, il mutuo della casa, sicuramente. Anche dopo ci siamo trovati a casa sua, lui gli piaceva contemplare e voleva essere veramente trattato male. Ma male. Ma la moglie com'è? La compagna com'è? Era notevole, una bella cavalla di 42 anni. Mamma mia, che bionda. No, ma non ho capito bene in che modo voleva essere maltrattato questo qua. Allora, prima verbalmente, cioè? Praticamente, stronzo, vai a prendermi questo, ti piace come mi scopo tua moglie? Il turpiloquio gli piaceva molto. Ma ho notato che la cosa che a un certo punto, visto che avevo iniziato a prenderci un po' la mano, e visto che mi stava anche un po' sul cazzo, devo anche essere sincero, allora gli ho detto: no, la moglie gli stava sul mio cazzo. Vai avanti, praticamente gli ho detto: senti, qui abbiamo sete, vai a prenderci una bottiglia. Allora lui è andato, è arrivato con due flute di bollicine, anche abbastanza buone, quindi mentre facevo quello che dovevo fare, gli ho detto: senti, fa veramente schifo, apreci un'altra bottiglia. Lui è venuto e ci ha aperto la bottiglia davanti. Lo trattavo malissimo. Ma la vera umiliazione qual è stata? La vera umiliazione è stato quando lui ha chiesto che io... Lì è veramente incredibile. Gli sono venuto sui seni a lei e lui ha pasteggiato con il mio frutto, mettiamola così. Ma proprio avidamente. Ma l'ha fatto di sua spontanea volontà o perché gliel'ha chiesto la moglie? No, era una delle sue fantasie. Tu sei venuto sulle tette della moglie, che e della moglie, lui ha pulito tutto. Ho appena cenato. Questa è la realtà. Questa è vita vissuta da gentleman. Ma che vita vissuta è un orrore. Ma quale orrore? Non è un orrore, è la vita reale all'interno di una coppia con gentleman che fa queste operazioni qua. Fuori dalle mie corde, comunque, questa esperienza. È un po' fuori dalle mie corde. Sì, gentleman, ma tu non sei un bull allora vero e proprio, sei un bull gentile, diciamo, sei un bull. Ma cosa vuol dire? No, cioè, sono un bull, mi piace giocare nella dinamica di coppia, dove magari anche lui partecipa con la gente, è da ricoverare. Ma perché da ricoverare? L'unica libertà che ci rimane, ma è una delle poche libertà che abbiamo. Ma non ho capito perché uno non si può divertire con le proprie perversioni e Parenzo deve fare il moralista a dire no, oddio, no, è da ricoverare. Non c'è violenza, ognuno fa quello che vuole nella vita. Non ho nessun problema, lo dico che a me mi fa orrore, ma posso dire che mi fa orrore. Ma certo, ti puoi dire che ti fa orrore, ma fa parte della realtà. Infatti, il dottor Parenzo è libero di non esercitare, giustamente. Ma io anche solo immaginare quella scena lì mi fa orrore. Ma è una scena. Scusami, è una scena. A me fa orrore immaginare la monogamia, pensi a lei. Scusi, gente, ma quali altri incontri ha avuto durante quest'estate? Beh, comunque c'è una via di mezzo tra la monogamia e sta porcheria. Sì, questo non c'è dubbio. Ma non è una porcheria, perché la devi definire porcheria? Questo mi fa impazzire. Perché la devi fare? Ma è una dinamica particolare di sesso che avviene all'interno di una coppia. Ma perché è disturbata? Ma perché è una coppia disturbata? Allora è normale. Il sabato sera è normale chiamare il bull, fare queste porcherie qui, farsi umiliare, allora è normale. Ma che non sto dire? Dicendo che è normale, sto dicendo semplicemente chiamate il bull, dice: cosa fai stasera? Vado al cinema con Domitilla e Emilio Trucco. No, chiamo il bull, e chiamate il bull, che vuoi che ti dica? Sicuramente io una serata magari più divertente, più spensierata magari. Vabbè, insomma non ho capito, gentleman, che è successo poi? Ma niente, poi ho avuto qualche incontro con qualche coppia più soft, molto interessante. Una coppia che poi la lei di coppia è venuta a trovarmi due volte da sola, quindi non male, devo dire. qualche incontro. Questo. Anche sì, questo, Davide, sì. È interessante. Praticamente succede spesso che la lei di coppia, praticamente dopo il primo incontro insieme al marito, diciamo al compagno, poi viene abbandonata, viene praticamente consegnata. Ma tutta la luce del sole, sia ben chiaro. Sì, cioè, non viene consegnata al bullo. Cioè, qualche volta c'è un upgrade, diciamo. Prima lo si fa col marito davanti e poi la moglie o la compagna praticamente lo fa da sola. Cioè, questo è l'upgrade, capito? Sì. Va bene, gente, ti saluto e ti abbraccio. Ciao, ciao, gente. Beppe, buona serata. Ciao, ciao. Signor Gentleman 73, a me piace quando, quando Parenzo improvvisamente si scandalizza per delle cose che possono accadere, insomma, niente di così strano. Perché la fate passare per normalità. Luca da Pisa, ma no, Luca da Pisa, vai. Luca, dimmi. Luca. Buonasera. Dimmi. Ora, dopo questo intervento qui, cioè, io sono rimasto per tanta robettina, cioè quello che ha parlato ora, tanta roba. Troppo. Tanta. Senti, comunque... tanta roba, nel senso, una grande descrizione della realtà. Della realtà. Allora, senti, ti volevo domandare una cosa. Mi spiegate una cosa? Ho sentito che vanno di moda quelli che telefonano magari a 35-40 anni, non hanno ancora scopato, no? Ho sentito che voi, insomma, l'avete un po' come dire, ma te sei malato, ma come fai? Ma te vatti a far curare. Volevo domandare, ma mi spiegate perché uno che ha 35 anni e non ha mai scopato deve andare a farsi vedere, invece uno che lo prende nel culo ci deve andare a farsi vedere? Però scusami Luca, c'è una piccola differenza tra uno. C'è una piccola differenza tra uno. Ma no, fai meno che non hai scopato. Aspetta, Luca, sei in viva voce o con l'auricolare, figlio mio. No, metti bene sto telefono che non si capisce un cazzo. È messo benissimo. Dimmi, non è messo benissimo, non si sente una sega. No, boia che boia, non si sente una sega. Capito? Mettilo meglio, attaccalo bene sono tutto un pezzo col telefono, guarda. Allora, la cosa fondamentale è questa. Non, il paragone non è accettabile, viene respinto in pieno, perché pigliarlo in culo non capisco quale sia la differenza tra perché dovrebbe essere condannato la monogamia. Ma per me va bene anche uno che lo prende ma uno culo, che non ha mai scopato in 34 anni di vita sarà diverso. Non è normale. Ma per quale motivo deve essere normale? Se lui che ha mai scopato, gli interessa scopare, sarà normale. Ognuno che ma certo, ma pare. Nessuno non gli voglio imporre di mettere l'uccello dentro la figa di qualcuno. Ma l'hai detto, sei malato, ma certo, a 34 anni se non hai fatto un cazzo sei un po' malato, hai delle patologie, devi farti curare, mentre uno che lo piglia in culo è normale. Uno che lo piglia in culo va bene, uno che non chiama va male. Vabbè, è incredibile. Perché ti stanno sui coglioni quello che lo pigliano in culo? Mi spieghi? No, a me non mi sta. No, ma che me ne frega? A me ognuno a casa sua faccia ma il cazzo gli fa. Io sono contento per loro se li capa perdere nel culo, ma non capisco il perché devi dire a uno che ha 35 anni non chiama, che non va bene. Ma certo, se hai 35 anni non hai fatto niente, sarai un po' malato, c'è qualcosa che non funziona. Dai, su. Questa conversazione. È una conversazione normale perché abbiamo affrontato due argomenti molto importanti gente che fino a 33-34 anni non, praticamente non tocca palla, non ha mai messo l'uccello dentro una vagina. Ho capito, ma infatti non gli voglio imporre nulla a queste persone, non voglio imporre nulla a queste persone. Ma perché lo devi dire che è malato? Perché così sono malati? Va bene. E invece se uno prende il culo invece non è malato, si può dire che uno che non è normale. Se uno non hai cavata a 34 anni non sei normale. Uno che lo prende nel culo per te perché, è normale. Perché uno che lo piglia in culo prova gioia, prova godimento. Ma se quelle prova gioia a non fare niente. Ho sentito che si finisce dalle seghe, magari è contento. Ma io impazzisco, adesso lo mando a fare in culo. Soddisfazione. Adesso questo qua lo mando veramente a fare in culo. Manda a fare quello che non sai come controparte. Ma capito? Smettila, boia. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.